Radio 24. Libera la voglia di fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Sette e 34 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi. 7:34 minuti, buongiorno da Carlo Gabardini. Almeno su questo siamo sincronizzati, Carlo, gli orologi sono a posto. Esatto, si rinizia, si ricomincia, si inizia prima, si finisce anche un po' prima. Certo. Carlo, Milano-Monterosa, possiamo dirlo? È talmente presto che non si sa, però non mi sembra che stia per nascere una bella giornata. Direi che potrebbe anche venire della pioggerellina. Vabbè, ieri ha piovuto, tempo incerto, un po' ovunque, è così. Va bene, cari ascoltatori, 800 24 00 24, però si apre da subito il numero verde se volete stare con noi. Parleremo nella seconda parte, fra poco facciamo un po' di titoli, un po' di giornali. Non è una vera e propria rassegna stampa, perché lo sapete, la nostra missione è trovare le buone notizie. Quindi certo, surferemo sui giornali cercando varie notizie. Però è la mia prima rassegna stampa, quindi un pochino dobbiamo chiamarla anche rassegna stampa. Assolutamente sì. E però poi dopo parleremo di slot, perché c'è l'annuncio del governo e delle regioni di dimezzare i punti gioco e anche il numero delle slot machine. Vedremo se il governo fa sul serio. Sarà con noi il sottosegretario Baretta e sarebbe bello che nei bar al posto di qualche slot riapparissero i biliardini. Pensavo stessi facendo un gioco tra bar e baretta e dicevo allora iniziamo proprio alla grande. Se volete fin da subito prenotare il vostro intervento sul tema slot, 800 24 0024. Andiamo a vedere un po' i giornali oggi di cosa si occupano. Cominciamo con qualche titolo. Per esempio Corriere, titolo principale sulla questione del sospetto stupro di due ragazze americane a Firenze. Violenza, indagati due carabinieri. Le ragazze americane accusano i militari, negano invenzioni. L'arma, se è vero, sono indegni. Ovviamente, la ministra Pinotti, c'è qualche fondatezza. Gli Stati Uniti, vicenda molto seria. Così il Corriere. C'è qualche altro titolo? Vediamo un po'. Un po' tutti parlano. In realtà anche Repubblica dice stupro, indagati due carabinieri, le ragazze paura di quelle armi. Anche se in realtà Repubblica apre su intercettazioni, il governo frena. Ah, questo è un tema che scalda un po' tutti. A sinistra anche il Fatto Quotidiano. Adesso vedremo per esempio gli altri titoli, però insomma sulla storia delle violenze qualche altro titolo, vediamo. Carabinieri indagati, scrive il Messaggero. Il Secolo XIX, stupro a Firenze, l'ambasciata USA chiede chiarezza, sospesi due carabinieri indagati. Per il giornale Firenze sotto shock, la stampa riporta soprattutto la posizione americana, che è quella del Dipartimento di Stato americano, che stigmatizza, prendiamo queste cose molto seriamente, mentre il console generale americano a Firenze, Benjamin Wohlauer, ieri mattina si è recato in questura e al comando dei carabinieri per avere rassicurazioni sull'inchiesta. L'inchiesta che è così, ci sono i racconti delle due ragazze, scrive la stampa, 19 e 21 anni, dopo una notte di alcol e droga in discoteca, il loro racconto di questa violenza che avrebbero subito in casa loro. Ci sono 20 lunghissimi minuti di tempo fissati dalle telecamere in cui la gazzella dei carabinieri, prima di allontanarsi alle 3:13 del mattino, resta davanti all'elegante palazzo nel centro storico dove le due ragazze abitano. Però ci sono ancora dei dubbi. Chi invece si dimentica completamente della vicenda è Libero, che non ne parla minimamente della vicenda dei due carabinieri. Libero che apre con "ci vogliono morti", riferendosi all'attacco hacker al sito liberoquotidiano.it, e poi comunque ricorda anche perché hai detto di Libero? Perché Libero non parla minimamente della questione dei due carabinieri. Stavamo parlando di quello. Sulla vicenda di Rimini invece c'era stata tutta una questione, diciamo, c'è stupro stupro e stupro, volevi dire. No, non tutti gli stupri valgono le stesse prime pagine. Questi sembra che sul libro non facciano notizia, ma all'interno sicuramente ci sarà qualche articolo. Questo comunque è quello che il bel reportage che fa la Stampa, che chiarisce bene la vicenda. Però bisogna dire che solo l'esame del DNA chiarirà davvero se sono loro i due responsabili, fra l'altro, di violenza o eventualmente anche di un rapporto consensuale. Questi sono i dubbi che hanno ancora gli inquirenti. Oh, ma cioè, mettiamo subito una buona notizia da qualche parte o no? Buone notizie non sono mai facili da scovare. Io ce n'ho una, però ve la leggo tra poco, riguarda Milano. Ce n'è un'altra che riguarda Milano ed è una notizia interlocutoria, perché riguarda un po' tutta Italia. Vaccini, un terzo dei bambini resta irregolare, scrive la Cronaca di Milano. A proposito, perché insomma lunedì ricominciano le scuole, bisogna arrivare, scuole, asili nido, materne, con il certificato di vaccinazione, e tieniti forte, perché Milano ci sono 22.500 certificati consegnati sui 33.000 iscritti, quindi per ora il 68%, e complessivamente un bambino su tre, vaccinato o meno, non è però ancora formalmente in regola per entrare in aula, perché o non hai vaccinato o non ha il documento che lo certifica. Uno su tre a Milano. E questa ti sembrava la buona notizia? No, ho detto. Notizia che riguarda Milano. Ce n'ho una buona, ma ve la dico dopo. Ce n'ho una non buona, che era questa. Io le mie bimbe le ho vaccinate tutte e due. Giustamente. Sono in regola. Ci mancherebbe. E invece la Gazzetta dello Sport apre su il VAR. Stanno facendo un sondaggio per cui la moviola in campo, che appunto si chiama VAR, piace al 79% degli intervistati. Sono tanti o sono pochi? Sono tanti. Perché tutti criticavano molto. Qualcuno dice che è il 79% semplicemente perché hanno dato due rigori contro la Juve, quindi piace a tutti. Perché la Juve non piace a nessuno. In realtà sono tutti lì a rosicare, perché vince sempre la Juve. Allora, poi dicevi le intercettazioni, l'altro tema forte di alcuni giornali, che Corriere, l'apertura di Repubblica, l'abbiamo letta, perché c'è questo piano allo studio che è stato reso proprio anticipato ieri da Repubblica, una sorta di legge bavaglio, scrive per esempio anche il Fatto Quotidiano, il PD peggio di B, che sarebbe Berlusconi, bavaglio ai PM e ai cronisti a fare Consip, addio, vietata ai PM riportare le intercettazioni, solo i contenuti, scrive ancora Repubblica, che appunto ha fatto questa anticipazione. Una nuova legge bavaglio, un modo per coprire l'inchiesta Consip, sono virgolettati, un vulnus nella lotta alla corruzione, a protestare con queste frasi sono le opposizioni, Movimento 5 Stelle, la sinistra bersaniana, MDP, Sinistra Italiana, possibile tutta la sinistra più il Movimento 5 Stelle, protestano contro che cosa? Contro la bozza di decreto attuativo in materia di intercettazione anticipata ieri da Repubblica, che prevede tra l'altro il divieto di pubblicarle se non in forma di riassunto. Quindi, però su questo t'aggiorno, visto che abbiamo una grande possibilità, dopo centinaia di anni in cui si fa la rassegna stampa, esistono anche i giornali online, quindi praticamente è come avere la prima puntata, ma abbiamo già anche la seconda puntata, perché già Repubblica apre il sito dicendo: la retromarcia del ministro sulle intercettazioni, sì, pronti a discutere via il divieto di frasi integrali. C'è il Corriere che invece fa una pagina su Beppe Grillo. Perché Beppe Grillo? Perché? Che fine ha fatto Beppe Grillo? C'era l'anniversario del V-Day, 10 anni, manifestazione a Trieste, e lui non c'era. Al termine di un'estate, scrive il Corriere, nel quale Grillo è stato defilato. Si è perso un vaffanculo. Non si può dire. Questa volta sì. Diserta la festa per 10 anni del V-Day, dopo un'estate lontana dal movimento, la freddezza con Casaleggio e l'ipotesi del padre nobile. Ascoltatori del Movimento 5 Stelle, lo so già che siete già lì che fremete. 349-238-6666, ve lo ricordo, ma tanto lo sapete. Scatenatevi, non abbiamo detto niente. Anche per capire la questione delle primarie, le primarie blindate su Di Maio, dice Repubblica, per capire come funzioneranno esattamente queste primarie. Allora, c'è anche però un'altra questione seria, che è quella, il titolo del giornale per esempio, è quella della malaria, no? Stiamo ancora in attesa che le autorità del Istituto Superiore di Sanità soprattutto stabiliscano come è stato possibile il contagio alla piccola Sofia a Trento della malaria. Nel frattempo il giornale intanto scrive: arriva la febbre africana, nuovo contagio, perché c'è un'altra notizia, ad Anzio tre casi di, qui bisogna intendersi sulla lettura, di vabbè, chikungunya. Quando non riesci a leggerla vuol dire che la stai prendendo, pare, è uno dei primi sintomi. Virus trasmesso dalle zanzare, stop alle donazioni di sangue. Allora, la notizia è che ci sono dei casi ad Anzio. Allora, intanto riscopriamo che in effetti in Italia la malaria c'è stata, e in alcuni casi ci sono sempre stati dei pochissimi casi di malaria, questo bisogna dirlo, spesso non mortali, curati, perché in Italia la malaria quasi sempre si riesce a curare, però adesso naturalmente fanno notizia a tutti quelli che stanno venendo fuori in questo momento, ma soprattutto la notizia, ahimè, è quella di Trento, dove scrive Repubblica: la malaria ci fa paura, le mamme isolano le due bimbe africane. Ma le piccole ricoverate a Trento con Sofia sono già guarite. Il papà della vittima, in questo paese ammalarsi è una colpa. Succede che alcune famiglie, dopo la tragedia che ha colpito Sofia all'ospedale Santa Chiara di Trento, adesso pretendono che i tre fratellini guariti dalla malaria, però la stessa che ha ucciso la bambina trentina, per alcuni giorni non frequentino la scuola. Nonostante siano guariti. Nonostante il fatto che la malaria si trasmette con la zanzara e non da persona a persona, con la saliva o in altri modi, non è così, si trasmette col sangue infetto, quindi ci vorrebbe una siringa che si passa da un bambino all'altro, quindi è impossibile. Bisogna, io dico però solo questo alle famiglie che giustamente sono preoccupate, questo è comprensibile, fidatevi di quello che dicono i medici, gli esperti, e di questi bisogna assolutamente fidarsi, perché se non ci si fida dei medici in Italia, allora cosa dobbiamo fare? Allora, però, tra poco ci fermiamo, sì, c'è il traffico, vi ricordo 800 24 00 24 per stare con noi, e poi anche per intervenire in diretta, per giocare con noi. È il primo giorno di scuola, lunedì, abbiamo detto, inizia la scuola, primo giorno di scuola per tanti bambini, anche per il piccolo George, che è stato fotografato per mano con William, che andava, che veniva accompagnato a scuola, e la mamma invece era a casa per le nausee, ho letto, perché pare che sia incinta del terzo figlio. Insomma, il primo giorno di scuola è una di quelle cose che livella tutti, no? Siamo tutti allo stesso, ed è bello per questo. Allora, noi vogliamo i vostri racconti del vostro primo giorno di scuola, del vostro primo giorno di lavoro, vale anche quello, vale anche quello, vale anche iniziare un sabato mattina a Si può fare, esempio, a Radio 24. Possiamo raccontare qualcosa anche noi. 800 24 00 24. Traffico, a tra poco. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova, vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Allora, ben ritrovati cari ascoltatori, ancora qualche titolo di qualche giornale, abbiamo qualcosa di particolare dalle prime pagine di oggi, per esempio su, intanto c'è, dov'è quello sulla notizia, la tempesta magnetica da record sul sole, l'eruzione più violenta da 11 anni provoca il blackout radio, colpiti i paesi del grande nord. Chissà se è questa la causa dell'hackeraggio che ha subito Libero. Ah, dici? Per cui hanno scritto: ci vogliono morti. Vabbè, dai, questo titolo però ci fa anche un po' ridere, forse volevano farci anche un po' ridere stamattina quelli di Libero. Poi ancora, cosa vi leggo, la notizia, per esempio, incredibile, 1000 aspiranti attori, Carlo, perché qua l'ho vista, è una bella notizia, che è va una notizia ancora alla grande, è una notizia interessante. Si aprono, come sempre, ogni 3 anni si aprono, sì, i provini per entrare alla scuola del piccolo teatro, la scuola fondata da Strehler, e quest'anno, con grande sorpresa di tutti, si sono presentate 1070 persone, quindi appunto lo chiamano una sorta di X Factor, perché di queste 1070 ne entreranno solo 25. Avendo fatto la scuola di teatro, lo so bene, conosco molto bene quel momento in cui auguri, vai a fare i 3 provini. Auguri agli, esatto, aspiranti attori. No, auguri, dice, non si dice, che poi dopo porta male, sì, insomma, è molto difficile. Allora, abbiamo letto la notizia sulla malaria, stop alle donazioni di sangue ad Anzio, sì, però in generale c'è bisogno di sangue. Noi abbiamo una notizia che vi vogliamo dare, che riguarda Taranto, vai, precediamola con una sigletta. Questa è la marcia degli incazzati, Eh sì, perché questo è il nostro spazio per gli annunci, per gli appelli, per le denunce. Allora, a Taranto c'è bisogno di sangue, lo dice l'Avis, perché ci sono diversi casi in questo momento che necessitano. Ricordiamo che, lo sappiamo perché quest'anno abbiamo festeggiato i 90 anni. I 90 anni dell'Avis. Le donazioni non sono quelle cose che appaiono su Facebook, sono bufale quelle lì. C'è bisogno di sangue per Maria, per Lucilla o per Alessio o per Carlo. Non sono personali, sono... Generali per tutte. Ce n'è sempre bisogno di sangue, esatto, ce n'è bisogna andare a donarlo. Allora, tra l'altro, questa, dicevamo, non è una rassegna stampa normale. Noi siamo a caccia Quando mai? Ma ti sembriamo i tipi. Siamo a caccia di buone notizie. Per esempio questa: Milano, il comune offre 100 spazi low cost, riaccendiamo le luci in periferia, un bando per affittare a prezzi stracciati immobili in disuso, ex negozi o garage a Niguarda, Quartogiaro, Comasina. Sport, cultura, socialità e startup. Cioè, ci sono dei bandi, fatevi avanti, cari giovani amici, aspiranti, imprenditori, startup, per quello che volete. E questa è una buona notizia. Molto buona. Ma di cosa parlano i giornali? Buone notizie, cattive notizie. Noi abbiamo mandato Andrea Ferro, e lo manderemo tutte le volte che ci sentiamo sabato e domenica mattina, a sentire, a chiedere alle persone cosa si aspettano di trovare nei giornali e se queste aspettative poi vengono in effetti realizzate. Sentiamolo. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Sentiamo quello che vorrebbero trovare sui giornali le persone che abbiamo avvicinato al nostro microfono e, come capirete, il discorso è abbastanza monotematico. Domani, signora, cosa vorrebbe trovare sul giornale? Sul giornale vorrei trovare un pochino più di lavoro per i ragazzi. Sui giornali però trovare lavoro? Eh beh sì, un cerca lavoro, un qualcosa da garantire, un po' di lavoro a questi ragazzi. Lavoro per mio figlio, che purtroppo è la cosa più... I giornali parlano poco di questi problemi reali, secondo lei? O ne parlano male, solo, diciamo, bugie. Compra il giornale? Io? No. Più notizie vere, perché comunque sono solo frottole. Quindi lei non crede ai giornalisti, sostanzialmente? No, non credo niente ai giornalisti. E quindi l'informazione, secondo lei, come dovrebbe essere? Per me l'informazione c'è il 30% di verità e l'80% di... 20 allora, 20... Sì, 20 e 30. Quali sono gli argomenti che in qualche modo potrebbero richiamare la sua attenzione? L'economia, ma non l'economia fatta dai grandi nomi, l'economia quella che si vede per strada. È un'informazione viziata, dalle statistiche. È bello fare statistiche, tutti mangiamo un pollo, ma c'è qualcuno che non ne mangia. Come si informa in genere? O TG televisivi o su internet. Si chiacchiere tutte, poi alla fine il sodo non si trova. E il sodo non si trova, e non si trova mai. Allora, noi abbiamo guardato i giornali stamattina sapendo che un po' era questo il tema, però non è che in effetti ce ne siano di notizie sul lavoro, non ce ne sono. Ma secondo me, cioè, comunque l'ascoltatrice in realtà intendeva lavoro, nel senso che lei vorrebbe trovare un annuncio. Beh, quello che abbiamo dato prima a Milano, il bando per i nuovi quello spazi è praticamente un annuncio. È quasi un annuncio. Il Sole 24 Ore c'ha notizie per chi lavoro ce l'ha già, in questo caso ad esempio i professionisti, perché c'è un approfondimento, avviso preventivo al cliente se l'operazione è a rischio, riguarda l'antiriciclaggio, un approfondimento importante sul Sole 24 Ore di oggi. E poi dato che siamo Si Può Fare e che cerchiamo di portare un piccolo raggio di sole al termine di una settimana di cattive notizie, adesso abbiamo un altro piccolo spazio che è quello del comune virtuoso della settimana. Ci guiderà Marco Boschini dell'associazione Comuni Virtuosi, che ogni settimana troverà un comune che si è distinto per qualche cosa di positivo. Sentiamo chi ci ha scovato questa settimana, Marco. Ciao Alessio, allora il comune virtuoso di questa settimana è Chiari, un comune in provincia di Brescia di circa 20.000 abitanti, dove l'amministrazione comunale ha deciso di attivare il bilancio partecipativo. In pratica è stato chiesto attraverso dei gruppi di lavoro a tutti i cittadini di dire qual è secondo loro l'opera pubblica da realizzare nel 2018, in voto che ne decreterà la scelta più importante nel novembre di quest'anno, obbligherà il comune a spendere 200.000 euro sul bilancio dei prossimi due anni. Una scelta di democrazia diretta, di condivisione delle scelte, che in un momento in cui il rapporto tra il comune, tra gli enti locali, le istituzioni più in generale, i cittadini è molto scarso e molto difficile, obbliga appunto amministratori ed amministrati a mettersi in gioco con spirito di servizio e positività. Grazie a Marco Boschini. Tra poco, dopo il GR, torniamo. Il Si può fare di oggi è il dimezzamento dei punti giochi e del numero di slot in Italia. Avremo il sottosegretario Baretta con noi. Chiamate all'800 24 0024 per dire la vostra anche sul tema slot. E quindi anche sul tema gioco, il nostro gioco, ovvero il vostro primo giorno di scuola. A dopo! Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. 800 24 00 24, vi aspettiamo per parlare di slot, con il dimezzamento dei punti gioco e delle slot all'annuncio del governo di questa settimana, tra poco, e anche per raccontarci, se volete, del vostro primo giorno di scuola. O anche del primo giorno di lavoro, ormai, in generale primo giorno. Ormai ci siamo e quindi vogliamo i vostri racconti. Per esempio, io ricordo il mio primo giorno di lavoro qua a Milano, alla TV del Sole 24 ore, arrivai e imparai che cos'era la conference call. Io venivo da una città italiana nella quale non si parlava inglese, no, a parte gli scherzi. Ma quindi era, hai iniziato l'inizio a lavorare l'anno scorso, perché l'anno conference call. Poi ho scoperto che era una videoconferenza praticamente, certo. Però mi disse: adesso abbiamo una conference call con Roma. Io, preoccupato, andai a cercare, sa cos'è, mi devo come preparare, come ci si veste, esatto, per una conference call. Vabbè. 800 24 00 24. E poi abbiamo delle notizie che sono i nostri Si può fare, con cui abbiamo fatto un po' di rassegna stampa, però siamo sempre a cerca, in caccia di buone notizie. Per esempio, questa qua non si può fare, però non lo so, se è un po' inquietante, viene dalla Cina: pagare con un sorriso. Si chiama Identity Check Mobile, ribattezzato Selfie Pay. Tu entri, adesso soltanto vale nei fast food, entri e invece di usare il bancomat scegli quello che devi pagare e c'è il riconoscimento facciale e tu devi fare un sorriso e Alibaba ti fa scattare la transazione economica. Ah, ma io speravo che fosse sulla fiducia, che uno dice vabbè, ma se sorride così, cioè che basta veramente solo il sorriso. Invece è il sorriso che fa scattare l'IBAN, cioè fa scattare il bonifico. Non so se c'è molto da ridere quando la Cina diventa più capitalista, per paradosso, del resto del mondo. Un'altra bella notizia: apre il nuovo Anteo, già lo si sapeva da un cinema, po' il cantiere Milano, diciamo, cinema di Milano milanesi, che è un cinema storico, che però diventa una sorta di multisala con 10 sale, anche se Cerri, l'ideatore, il gestore storico dell'Anteo, dice non ci saranno cinepanettoni al centro l'attenzione sociale. Infatti lui non gli piace chiamarlo multisala. All'interno di questo cinema la notizia migliore è che è previsto anche uno spazio con delle educatrici in cui i più piccoli potranno giocare, esatto, mentre i genitori guardano un film. Ma dirò di più: non solamente babysitter per i bambini piccoli, ma anche per i ragazzi più grandi, che possono fare un corso tipo di montaggio, di fotografia, della durata di una proiezione. Quindi tu vai con i tuoi figli adolescenti, vai a vederti un film noiosissimo che i tuoi figli non vogliono andare a vedere e loro invece si fanno il corso di fotografia. Questo è un problemone, perché quando c'hai i figlioli non puoi più andare al cinema se non hai babysitter e nonna. Invece qua vedi all'Anteo hanno trovato il modo di risolverlo. 800 24 00 24 è il momento di parlare di slot. Allora, ci sono due notizie degli ultimi giorni che riguardano le slot. Il combinato tra un decreto attuativo della legge dell'anno scorso sul taglio delle slot, che dovrebbero scendere da 400.000 a 265.000, più la notizia più recente, l'accordo Stato-Regioni-Comuni per la diminuzione dei punti gioco, cioè dei punti dove si gioca, sale gioco, tabaccherie, bar, eccetera, che dovrebbero scendere da 89.000 a 50-55.000 circa. Ricordiamo sempre che intanto la nostra non è una crociata contro il gioco d'azzardo, assolutamente, che abbiamo il record di gioco, vediamo chiudere bar, ristoranti, cinema, librerie e aprire solo che sale gioco. Esatto. E quindi ci dobbiamo, ma è possibile. Poi c'è un fenomeno grave che si chiama ludopatia, questo va detto. Poi ricordiamo anche che sotto traccia c'è sempre il conflitto tra il governo e lo Stato, che incassa quasi 10 miliardi l'anno, e gli enti locali, i comuni e le regioni, che non incassano niente, anzi semmai pagano i servizi sanitari per chi è malato di ludopatia, e poi hanno anche i cittadini che chiedono di regolamentare un po' questa cosa qua. E non si capisce se vorrebbero incassare anche loro le regioni o oppure se... chiudere proprio del tutto. E poi l'altra questione è lo sconto tra le grandi imprese, Lottomatica, Intralot, che gestiscono soprattutto le grandi scommesse e le sale giochi, e i gestori delle piccole macchinette, quelle che hanno sostituito i flipper e i biliardini nei bar. Sarebbe esatto, bello, tra l'altro, che tornassero anche, proprio. È una domanda anche dei nostri ascoltatori, appunto, capire quanto queste nuove leggi riguardino solamente i piccoli bar e i tabacchi e non invece le grandi sale slot. Abbiamo chiamato a fare chiarezza il sottosegretario all'economia con delega ai giochi, Pierpaolo Baretta, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, intanto abbiamo buttato lì un po' di questioni. Baretta, meno punti gioco è la novità dell'accordo Stato-Regioni con i comuni. Che cosa cambia? Perché abbiamo in realtà poi letto che resteranno comunque bar, migliaia, tabaccherie, migliaia. Quindi diciamo diminuisce l'offerta, ma non cambia la struttura. Cioè non come avevano chiesto per esempio alcune associazioni di concentrare in sale gioco e quindi togliere per esempio da bar e tabaccherie. Che cosa cambia? Beh, cambia che la riduzione, soprattutto per bar e tabacchi, è significativa, perché passiamo da circa 69.000 bar e tabacchi a 35.000, quindi praticamente un dimezzamento dell'offerta nel territorio nazionale. E sappiamo che uno dei problemi che avevamo avuto era proprio questa diffusione, ahimè, capillare nel territorio, per cui ogni angolo trovavi la possibilità di giocare, col rischio che il controllo sul divieto ai minori fosse praticamente impossibile. Quindi il dimezzamento è già un'operazione molto importante, tenendo sempre conto che c'è un equilibrio per evitare che il ritorno della criminalità organizzata, che è sempre dietro l'angolo su un settore così, diciamo, così ricco di profitto. Ecco, quindi questa riduzione è molto importante, perché diciamo il territorio non avrà più questa pervasività di offerta. Resta il fatto però che qualcuno diceva, Baretta, che le associazioni che combattono la ludopatia come fenomeno, come malattia, che forse arginare il gioco nelle sale giochi, dove uno va volontariamente, magari una, due, tre, quattro, cinque per provincia, ma non nelle miriadi di tabaccherie, sarebbe stata una scelta più coraggiosa, forse? Ma guardi, per quanto riguarda questo aspetto, noi concentriamo abbastanza, perché già nella legge stabilità dell'altro anno avevamo individuato 10.000 negozi o agenzie nel territorio nazionale distribuite, e più 3.000 che sono quelle dove c'è slot, videolotteri e sale bingo. Complessivamente i punti gioco che non siano bar e tabacchi saranno 18.000, quindi avremo alla fine 18.000 sale, chiamiamole così per capirci e semplificare, e 35.000 bar e tabacchi. Beh, è un'operazione di riduzione drastica. E di concentrazione drastica. In più tenga conto che per tutti questi 55.000, per poter vendere gioco, ci sarà bisogno di una certificazione di professionalità e di qualità che oggi non è richiesta. Ecco, a proposito, in più, se posso, sì, se posso spezzare una lancia per la direzione presa dal ministero, in realtà è vero che non si può vietare di giocare, nel senso che se uno vuole giocare gioca, anche perché gioca online e ci mancherebbe altro, quindi forse andare a colpire più la capillarità, quindi i piccoli esercizi, i bar, forse è saggio, perché comunque le sale gioco ci saranno. Se io voglio andare in sala giochi, se mi chiudono quella sotto casa e ce n'ho una a 200 metri, andrò in quella dopo 200 metri. Invece nel baretto sotto casa, dove io tutti i giorni vado a comprare le sigarette, se c'ho anche la slot machine, forse è un invogliare esagerato. Sì, aggiungo sì, che anche infatti nelle sì, sale gioco si entra solo dimostrando che si è maggiorenni. A questo dei proposito, esatto, no, perché è prevista che in questa certificazione che diceva lei, che riguarderà i punti sì, gioco, il riconoscimento anche, no? Il riconoscimento sì, della, certo, della, ma anche, quindi riguarderà anche bar e tabacchi? Sì, lo si può fare in due modi. Sì. Uno attraverso, diciamo, l'esibizione della carta di identità o di una carta sì, dell'esercente che si assuma la responsabilità. E il secondo, poiché le nuove macchinette, le 265.000 macchine che resteranno, saranno tutte convertite tecnologicamente, che si possa accedere alla macchina solo inserendo il codice fiscale. Senta, cose, un'altra critica che viene fatta dalle associazioni che combattono la ludopatia è quella che il decreto che rende attuativa la riduzione del numero di slot parlerebbe del fatto che sono le slot, le macchinette improduttive, le prime ad essere tolte di mezzo, cioè quelle che rendono poco, e questo sarebbe, come dire, incidere poco in realtà sul montante del gioco, che in Italia è da record praticamente a livello planetario. È vero questa cosa? Improduttive è un termine sbagliato, perché le macchinette sono tutte produttive. È vero che non le meno produttive, diciamo. Le meno produttive, le meno. Sì, è vero. Perché ma questa scelta? Beh, se riducessimo una o due macchinette, l'obiezione sarebbe giustificata. Ma visto che ne togliamo dal mercato 125.000, la perdita di gettito è sicura. Abbiamo cominciato a contenerla partendo da quelle che danno meno risultato. Cioè, per diminuire la perdita di gettito. In altre parole, diminuire la perdita di gettito. Lo Stato deve contabilizzare meno di quei 10 rotti miliardi di euro del 2016. Sì. Avete una stima di quanto potrebbe calare e calerà, che poi è la prova del 9, no? Se non cala il gettito, vuol dire che non cala il gioco. No, il gioco sta calando anche già adesso, nei primi mesi del 2017, ma questo è un fenomeno che prescinde dalla riforma. No, una stima precisa non l'abbiamo ancora fatta, vogliamo prima discutere l'applicazione. Lei cosa si aspetta? Un ordine di percentuale? Un 5%? Un 10% in meno? Ce l'ha una sua stima personale? Che fine, la riterebbe soddisfatto di questo risultato? Alla fine del... dell'operazione, quando avremo anche ridotto i punti gioco, perché le operazioni sono due, riduzione delle macchinette e riduzione complessiva dei punti gioco, io penso che andremo oltre il 10%. Okay. E poi inizieranno tutti a lamentarsi che a questo punto lo Stato incassa troppo poco e siamo poveri, giusto? Lo so, ma la scelta politica è chiara. La scelta politica io la comprendo, nel senso che il mio timore è che semplicemente questo 10%, quindi questo miliardo in meno che lo Stato italiano incasserà, andrà a qualcuno online che non sarà in Italia, e quindi semplicemente saranno dei soldi che andranno fuori. Il tema del web è importante, Baretta, perché questo è il vero problema. I due problemi che noi abbiamo, sì, sono la criminalità organizzata, cioè l'illegale, che è sempre lì, che è pronto a cogliere ogni occasione, e l'online. L'online è la vera sfida sulla quale bisogna dire con onestà che siamo tutti in ritardo. Esatto, le dico, io sono molto dispiaciuto per i ludopatici, però il ludopatico che spende all'estero e viene curato in Italia è proprio il peggio che si può avere. Le leggo anche un messaggio di un insegnante, dice: sono un insegnante, i ragazzi giocano online d'azzardo e anche con lo smartphone. Tra l'altro credo di qualche giorno fa il debutto del Gratta e Vinci sullo smartphone, Gratta Smart, una roba del genere, e quindi lì cosa si sta facendo, cosa si deve fare? Dunque, una cosa complicata ma necessaria è una legislazione europea che oggi non c'è, perché noi abbiamo in Europa, dentro l'Europa, dei luoghi dove i provider si piazzano perché la fiscalità è molto bassa, e da lì ti mandano il gioco e tu con lo smartphone giochi direttamente con questi paesi stranieri. Quindi tipo in Irlanda? Sì, esatto. La seconda è sempre a livello europeo, è una normativa che non riguarda solo l'online sulla pubblicità, perché bisogna disincentivare il gioco. La pubblicità pesa molto nella propensione al gioco. E la terza, noi stiamo lavorando ad un decreto nostro, italiano, molto più rigoroso sulle logiche di accesso e quindi rendere molto chiaro chi è legale e chi non è legale nell'offerta dell'online. Speriamo che si riesca a mettere qualche paletto anche qua. Senta, un'altra obiezione che viene fatta riguarda un po' la struttura del mercato, no? Perché intanto è vero che le grandi sale giochi, lo abbiamo in parte chiarito, vengono toccate meno dai decreti, cioè si interviene più sulla capillarizzazione, lei ha spiegato il motivo, che è anche condivisibile, però non si dovrebbe prevedere che nelle sale giochi possano entrare anche i piccoli operatori, che sono quelli che, come dire, per usare un francesismo, rimangono fregati, no? Quelli storici operatori che prima provvedevano a aggiustare il biliardino, ad aggiornare i flipper, eccetera, eccetera, che adesso sono passati alle slot e che con la diminuzione perderanno probabilmente la loro piccola quota di mercato a favore dei grandi gruppi. Cosa si può fare per questo? Ma su questo è una questione proprio di mercato. La mia personale opinione è che i piccoli operatori dovrebbero concentrarsi, consorziarsi e competere nelle gare, perché noi facciamo gare, affidiamo ai concessionari la gestione del gioco sulla base di gare. Alla gara possono partecipare tutti gli operatori che vogliono. Noi oggi sono 13 concessionari e poi c'è una filiera di migliaia di piccoli operatori a cui lei fa riferimento. Io sto insistendo da tempo anche con i piccoli operatori, che sono molto frantumati, che loro sarebbe bene che entrassero nel grande gioco, ma che lo dovrebbero allearsi in qualche modo in un'ottica di consorzio, l'allargamento della platea dei concessionari sarebbe utile. C'è una maggiore competitività anche tra coloro che gestiscono o che si presentano alle gare, sarebbe utile. Vedremo anche se questo si avvererà. Intanto ringraziamo il sottosegretario Baretta, grazie per essere grazie stato con noi. Grazie. Allora, queste le notizie, 800 24 00 24, tra poco i vostri commenti, cari ascoltatori. Io ridico semplicemente quello che ho detto prima: quanto sarebbe bello se nei bar tornassero, al posto magari di qualche slot, biliardini e flipper, magari qualche ping pong nei bar più grandi. Sarà che abbiamo una certa età e siamo nostalgici di quando... Ti ricordi che si metteva la moneta non dentro il biliardino ma sul bastone che apriva per far giocare, uscire le palline sempre in continuazione. Era una truffa, però, esatto. Poi si compravano gelati, limonate e il barista era contento lo stesso. 800 24 00 24 tra poco. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, Tonio scrive al 348-8866, io ho fatto la scelta di non frequentare più i bar che hanno le slot. È una scelta, come dire, legittima e coraggiosa anche da un certo punto di vista. Uno potendo scegliere, magari va in un bar che gli piace di più. No, dico coraggiosa perché a volte puoi fare 4 km a piedi. Ci sono zone a Milano dove tutti i bar che incontri hanno le slot. Non ho niente contro il fatto di giocare in sé per sé d'azzardo, ma quell'angolo buio del bar dove c'è il gioco che non fa ridere, che è l'azzardo, mi intristisce, devo dire la verità, mi inquieta assai. Antonio da Sassari, benvenuto. Prego. Allora, noi siamo un piccolo progetto, non più pilota, ormai sta proprio nascendo, sì? Che si occupa sia di democrazia partecipata, bilancio partecipato, che di, in un progetto all'interno dello stesso progetto, di no slot. Sì. bilancio partecipato, che era il tema tra l'altro del nostro comune virtuoso di Chiari di questa settimana, lanciato da Marco Boschi. Sì. E quindi proprio Antonio, poi, dicevi? E quindi noi cosa facciamo? Facciamo, individuiamo dei progetti, sì, che vengono votati, discussi, votati, e poi portati a finanziamento, sia pubblico che con crowdfunding diretto. Mm-hmm. E questa è una parte. L'altra parte. Ma portati al finanziamento, che cosa intendi? Intendo che partecipa sia il comune in questa prima fase, in pilota, sì, parteciperà prima il comune con dei denari veri, certo, e poi anche i cittadini possono. Il comune ci mette una quota importante, esatto, e poi i cittadini, se credono, possono integrare col crowdfunding. Certo. Perfetto. Tutto questo va ovviamente individuato, discusso, votato e poi portato a finanziamento. E questo avviene, scusa Antonio, ci siamo persi, nel comune di? Sassari. Ah, un comune grande, un comune importante. Sono tanti i comuni che stanno facendo progetti di bilancio partecipato. Avevi qualcosa da aggiungere però di particolare su questo progetto? Sì, c'è, per integrarci perfettamente nella vostra trasmissione, sì, c'è anche un progetto con il movimento No Slot che si chiama Apri e Dona e che saranno delle specie di gratta e vinci, chiamiamoli impropriamente, mm-hmm, distribuiti proprio nelle tabaccherie, nei posti dove si gioca, sì, che finanzieranno dei progetti che sono all'interno di Euculu. Cioè uno compra il gratta e vinci, dai 5 euro, però non ha nessuna possibilità di vincere, semplicemente ha consegnato 5 euro? Vince un miglioramento della città. Perfetto. Beh, questa non è questo male, è buono, perché si può vincere anche questo, un giusto ambiente migliore nel quale vivere, e non è poco, non è poco. Antonio, grazie, è una bella idea questa qua, eh? Teniamoci bravi, aggiornati. Voglio sapere se vince il gratta e vinci, o se vince il gratta e soddisfa la città. Bene, grazie Antonio. Giovanna da Roma, vai. Pronto, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Allora, io volevo dare la mia testimonianza di diciamo chi ha subito questa dipendenza, perché poi è una dipendenza di gioco, sì, d'azzardo, perché avevo un inquilino che non riusciva a pagarmi, non mi ha pagato per un anno perché aveva debiti di gioco. Tu hai una casa in affitto che esatto, per un anno non ti ha pagato l'affitto. Mm. Perché stava in debito con il gioco e io a mia volta ho avuto molte difficoltà a pagare un affitto. Era vera questa cosa, secondo te, o poteva anche essere una scusa detta? Ma me l'ha detto la sorella, per cui che abitava con lui, per cui credo che sia vero. Questo era un tipo un po' particolare. La cosa, sì, che io vorrei dire è che secondo me il gioco, come le sigarette nuociono alla salute, il gioco nuoce alla società, e secondo me non dovrebbero pubblicizzarlo in televisione, perché è esattamente la stessa cosa, secondo me. Ci sono già dei limiti, dei paletti sulla pubblicità, ma in effetti ancora non si è passati, diciamo. Basta pensare a Intralot, alla vicenda Intralot, che sponsorizzava addirittura la nazionale di calcio, comprese le nazionali dove giocano minori, il gioco è vietato ai minori, una follia. Poi si è tornati indietro e adesso la sponsorizzazione non c'è più, però mi diceva qualcuno che vedendo la partita Italia-Israele confermate, è riapparsa Intralot nei cartelloni, quelli a bordo campo, credo, sì. Beh, quello può essere una roba del genere, però non dovrebbe più esserci, perché la nazionale ha rescisso il contratto con la Intralot, anzi addirittura si è detto che i soldi venivano dati per la lotta alle ludopatie. Ma un conto della nazionale, un conto sono le pubblicità dello stadio, quindi se lo stadio fa un accordo può darsi che fosse lo stadio, allora in quel caso lì. 800 24 00 24, torniamo tra pochissimo. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Una storia, un si può fare dei nostri, proprio una storia, una bella storia. che non poteva mancare non poteva nella nostra prima puntata, anche nella nuova edizione di Si può fare. Allora, 2 anni fa questo ragazzo ha aperto un'attività a Toscolano Maderno sul lago di Garda, che dovete sapere, per chi non lo sapesse, che è la valle delle cartiere. Fin dal 1300 si produceva carta di tutti i tipi. Poi queste cartiere sono chiuse negli anni 60, quasi tutte. All'inizio sì, negli anni 60. Adesso però c'è chi ha pensato, nell'era di internet, di social network, del touchscreen, degli smartphone, di riutilizzare e di rivalorizzare in qualche modo questo distretto della carta. Filippo Cantoni, fondatore di Toscolano, benvenuto, buongiorno Filippo. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Buongiorno. Allora, complimenti, cosa ci fate con questa carta? Perché riprodurre carta di qualità? Per fare cosa, Filippo? Ma intanto perché l'Italia è un paese di produttori, quindi noi siamo capaci di fare con le nostre mani e nel mondo nessuno può imitare il Made in Italy. Quindi questa è la base che ci ha motivato a scoprire una tradizione antichissima che risale, come dicevi, alla fine del 1300. Oggi produciamo carte di valore e ci rivolgiamo a quello che io chiamo il mercato della bellezza, il mercato che si basa proprio su questo sapore del Made in Italy che è inimitabile. Ma quando dici mercato della bellezza intendi solo il mercato del lusso, quindi della carta che costa tantissimo, o anche della carta per tutti? Intendo anche il mercato della carta per tutti, perché appunto si va dal biglietto da visita ad un bel notice, piuttosto che a tutto il mondo della ristorazione, che certamente coinvolge il largo pubblico. Certo, sono un appassionato di carta, per questo te lo chiedevo. Tra l'altro si tratta anche, in alcuni casi, forse non sempre, ma di carta prodotta in modo sostenibile, perché abbiamo letto che recuperate, anche riciclate, delle eccedenze nella produzione, che hanno a che fare con la produzione del parmigiano. Ci spieghi un po' di che si tratta, giusto? Sì, nel laboratorio nostro di Toscolano 1381 partiamo anche dal recupero delle fibre di lino che ci vengono date da un'azienda, si chiama Zanetti, che produce parmigiano reggiano e che ogni mese butterebbe, quindi avrebbe un rifiuto dato da queste tele di lino. Perché sono quelle tele nei quali si fa in qualche modo filtrare il latte, quelle cose lì? Sì, esatto, sono le tele con cui il casaro raccoglie la cagliata, sì, e che poi, una volta che ha dato la forma al formaggio, dovrebbe poi appunto buttar via per questioni igieniche. E come si chiamerà questa carta? Perché ci sarà un gioco di parole tipo filigrana. Con filigrana, secondo me, vi portate a casa tutto il mercato, sia a del formaggio. Non l'abbiamo ancora pensato, esatto. Beh, la consulenza. Io per fare il copy. Beh, la consulenza, però, di Carlo si fa pagare per le consulenze. Esatto, non abbiamo ancora pensato. Questa ormai è scappata così. Ma mi puoi pagare con un block notice, con un diario, con un diario di carta. Molto volentieri. Mi mandi l'indirizzo molto volentieri. Va bene. Quindi anche carta sostenibile, dicevi carta per fare menu dei ristoranti, per esempio, no? Per fare quella carta a mano che si usa per scrivere lettere, che ormai non lo fa quasi più nessuno, ma invece forse qualcuno, pochi lo fanno, e magari proprio quelli che lo fanno hanno il desiderio di avere in mano, di poter toccare una carta. Com'è al tatto anche la vostra carta? Una carta molto morbida, perché al 90% lavoriamo con prodotti che vengono dal cotone, e quindi direi proprio la sensazione che stia toccando un cuscino. Un cuscino. Ma che futuro ha la carta in un già mondo in cui, giustamente, prima Alessio diceva, in cui è tutto touch, è tutto schermi, è tutto internet. Giustamente sotto le mail c'è scritto: pensa all'ambiente, non stampare questa mail se non è strettamente necessario. È un uso diverso da quello pre-internet? Ma il futuro che ha la carta penso sia un po' il futuro che avrà tutto l'artigianato italiano. Siamo in un'era touch, ma poi di fatto tocchiamo molto poco. Quindi io penso che ci sarà un ritorno a dei ritmi più lenti, più umani, dove anche l'oggetto singolo ha un valore, non può essere solo visualizzato. Io per esempio non riesco a non fare a meno di fare le liste delle cose che devo fare su carta. Devo avere la carta, esatto, in mano, cioè, sottolineare, scrivere, tagliare, piegare, strappare, sono utilizzi che hanno un loro senso. Senza considerare che uno può disegnare, può fare dei disegni, perché poi sono cose che si fanno quando si va a scuola, poi in genere si smette, invece è bellissimo disegnare, fare schizzi. Mia nipote fa il liceo artistico, io sono ammirato di tutti questi disegni che fa, è molto bello. Tra l'altro avete anche un museo, se ho capito bene. Sì, esatto, noi la sede di Toscolano 1381 si trova proprio all'interno di un ex cantiere del 400, dove c'è anche un museo della carta che racconta una storia giunta al suo settimo secolo di esistenza. E siccome queste storie sono belle per somma di cose belle, è vero che avete anche coinvolto i vecchi maestri cartai, mastri cartai, che sono quelli che sapevano fare il mestiere, che poi, come abbiamo detto, si è perso negli anni 60-70, che voi adesso state in qualche modo coinvolgendo? Sì, quando io ho iniziato a lavorare a questo progetto, in questo museo c'era un gruppo di lavoratori anziani, pensionati dal mondo della carta, che anziché passare il tempo, come dire, al dopo lavoro, a giocare a carte, ci aspettavamo, esatto, almeno a giocare a carte, si erano rimessi a studiare quello che facevano i loro avi secoli e secoli prima, quindi proprio sfogliando l'enciclopedia del Diderot, andando a cercare su vecchi manuali. E così, quando io ho iniziato a lavorare in Valle delle Cartiere, sono stato proprio stimolato da questa presenza di mastri cartai anziani che, per quanto giovanili, per quanto in salute, prima o poi, insomma, dovranno passare la mano, passare un'eredità a qualcuno. Pensa che bello farsi insegnare il mestiere da chi lo ha fatto in tempi quasi pionieristici, da un certo punto di vista. Effettivamente li abbiamo presi in tempo, perché quando ho iniziato c'era un gruppo piuttosto corposo, oggi sono un gruppo piuttosto esiguo. Viva i mastri cartai, lunga vita ai mastri cartai. Esatto, lunga sempre. Vita ai mastri cartai. Mi raccomando, grazie Filippo Cantoni di Toscolano, la cartiera di Toscolano Maderno, che ripropone la carta di qualità. E sappiamo che in Italia è una tradizione, come anche altrove, che c'è sempre stata. Questo era un Si può fare. 800 24 00 24. Ascoltatori, però c'è ancora un po' di tempo per stare insieme con Antonio, che ci chiama da Salerno. Benvenuto Antonio. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Nulla, io mi sono permesso di disturbarvi per fare qualche domandina al ministro Paretta per quanto riguarda l'ultima novità sul settore ciò. Sì, adesso ecco, le domande noi le incameriamo, poi le rigiriamo virtualmente a Baretta la prossima volta che lo sentiamo. Se comunque sottosegretario sarà sì. Felice di essere stato fatto ministro durante questa telefonata. Sì, sì, sì. Gliela diamo noi la buona notizia. Vabbè, per quanto riguarda il settore giochi, io lo ritengo il ministro, perché è lui che decide. In effetti è lui, giusto, in effetti bene, è lui, in effetti sì. Vai Antonio, qual è la domanda? Le domande? La domanda era molto semplice. Io accetto quello che è stato fatto per quanto riguarda la riduzione, anche se per me è stata, credo che sia un po' esagerata per quanto riguarda. Scusa, ti faccio una domanda. Sei per caso un operatore del settore? Perché è un tema. Ma sono più un esercente che un operatore. Cioè, è un bar? Quello che conosco bene. Hai un bar, settore, una tabaccheria? Sì, un bar, sì. Perfetto. Essendo vai. Che conosco bene il settore, sono esperto. Vai, non bruciarti tutto allora, il tempo, vai pure. Le dicevo, loro la riduzione, ok, l'accettavano, nel questo, però ci sono alcuni punti che sono inutili. Loro hanno attaccato violentemente le slot machine, quelle che funzionano a un euro, non toccando le VLT, che secondo me sono quelle più pericolose. E le spiego il perché. Hanno eliminato l'introduzione della 500 euro, ma non era quello il problema. Che fa male al giocatore, è la puntata sulle VLT, che io riesco a giocarmi 10 euro in un secondo contro le normali slot, che con un euro io mi faccio due partite. Insomma, Antonio, noi siamo in chiusura, però abbiamo capito anche da questa domanda che ci sono problemi molto specifici. Abbiamo fatto, ci sono problemi molto specifici. Questa questione andrà avanti perché è molto complessa. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e seguito in questa che era la prima puntata della nuova stagione di Si può fare. Torniamo domani, tra l'altro, dopo il GR delle 8. Quindi domani anticipiamo. Dopo il GR prosegue la diretta di Radio 24 con Si può fare alle 8:10. Alle 8:10. Un ringraziamento naturalmente ad Andrea Piana, autore insieme a noi del programma. Che saluto e ringrazio anch'io. Cattone e Filippo. Regia, ci sentiamo domani. Ciao da Alessio Maurizi e ciao da Carlo Gabardini.